sense of our common dangers. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. And thank you, President Clinton, for the extraordinarily brief introduction, which... Ormai ci ha preso gusto, dopo la visita da David Letterman Show. A proposito, l'avete visto ieri nella nostra replica in Italia, offerta da Sky. È stato uno spettacolo piuttosto istruttivo, ritengo, e occhio perché questa sera tocca a Bill Clinton sulla poltrona di Letterman. Comunque, diciamo, Obama ci ha preso gusto un po' a fare lo spiritoso, ed è questo il modo in cui ha salutato i partecipanti al forum della Clinton Initiative, la grande fondazione gestita dall'ex presidente degli Stati Uniti d'America, dove ha tenuto un discorso interessante, un discorso che è partito proprio da questa idea barra fissazione barra ossessione barra forse anche necessità americana della filantropia come strada possibile per salvare alcuni dei mali del mondo. Naturalmente filantropia significa privato, e qui poi il discorso diventerebbe grande e importante nel distinguere dove sia cosa buona e giusta l'intervento del privato e dove invece è lo Stato che dovrebbe farsi carico delle proprie responsabilità. La bellezza del volontariato è che tutti lo possono fare e tutti ci possono provare, e il risultato può salvare la vita di milioni di persone, ha detto Barack Obama nel corso del suo intervento, con un appello a dare in tempo di crisi, perché il governo da solo non ce la fa. Ecco, questa è stata un po' la lettura della filantropia contemporanea da parte di Clinton in questo appuntamento denso, fin troppo denso, di celebrità, di nomi noti. Era assai prestigioso essere seduto in quella sala. Oggi però l'agenda di Barack Obama, al quale Letterman, no, diceva ieri: beh, lei forse fa un lavoro un po' più complicato del mio. Ecco, tra l'altro su Fox stanno scorrendo ora, alziamo un attimo, stanno già commentando, perché naturalmente con il tempo americano il buongiorno America è già un commento alla partecipazione di Bill Clinton allo show di Letterman. Si è mosso niente meno che Newt Gingrich, uno dei santoni della destra americana, per commentare questa sfilata di grandi democratici da Letterman, che sta facendo molto rumore nei media americani. Vi dicevo che Letterman aveva commentato la partecipazione di Obama al suo show dicendo: beh, certo, lei fa un lavoro davvero più complicato del mio. Allora noi oggi ci siamo così un po' interessati, abbiamo fatto un po' i ficcanaso, siamo andati a leggere dentro la agendina del presidente Obama per vedere cosa ha da fare oggi, no? Per paragonarlo con la nostra e vedere se il suo lavoro è più complicato del nostro. Stiamo scherzando, naturalmente. Abbiamo scoperto così che a un'ora tutta da vedere Michelle Obama, la signora, arriva a New York, dove Obama è già da un paio di giorni, però probabilmente non sveglierà il presidente, perché la sveglia invece è prevista in modo tale perché alle 3 ora italiana, alle 9 ore di New York, Obama cominci la sua giornata di lavoro con un meeting bilaterale con il primo ministro del Giappone, Hatoyama. Poi lo vedremo alle 10 dell'ora di New York fare il proprio discorso alle Nazioni Unite, un breve break, qualche saluto, e alle 12 un incontro con i leader dei paesi che hanno delle truppe impegnate nel peacekeeping in Medio Oriente, quindi Italia inclusa. All'1:05 Obama partecipa a una cerimonia per i membri caduti delle rappresentanze delle Nazioni Unite, cadute naturalmente nei fronti di crisi. All'1:15 va a pranzo presso il segretariato generale delle Nazioni Unite, da Ban Ki-moon, che è il suo ospite con la partecipazione di capi di Stato e di governo. Alle 3:30, giusto, vero? Preso caffè e ammazza caffè, ha un bel bilaterale con il presidente russo Medvedev, che a quell'ora, secondo me, ci sta proprio un bilaterale di questo genere, come il cacio sui maccheroni. Poi però c'è un pomeriggio molto rilassante, secondo me tempo anche per un po' di shopping, in giusto l'ora per mettersi lo smoking. E questa sera, ora americana di New York, alle 7, insieme a Michelle, che nel frattempo sarà andata dal parrucchiere, fare il suo fare l'ospite a sua volta nella grande festa per i capi di Stato e di governo, quella del governo degli Stati Uniti d'America. Insomma, una giornatina, diciamo, pienotta, va? Oh, ci sono voci naturalmente attorno a questa assemblea generale che ci interessano parecchio, voci e partecipazioni, come al solito quello capace di fare più rumore di tutti è sempre lo stesso, ovvero Mahmoud Ahmadinejad, che nel prologo dell'incontro tra capi di Stato si è disposto in una maniera particolarmente, come dire, amichevole e sorridente, così ha guadagnato tutte le prime pagine, tutti i telegiornali americani, con il suo invito a Obama a considerare l'Iran come un potenziale amico degli Stati Uniti d'America. L'intervista è stata concessa alla Associated Press e quindi subito condivisa da tutti i network. Ahmadinejad ha ammesso di sperare in discussioni libere e aperte sul programma nucleare iraniano, ma ha ribadito che il suo paese non ha intenzione di negoziare il diritto al nucleare civile. Ho sentito Obama dire che la prossima minaccia è l'Iran, ma l'Iran invece è una opportunità per ognuno, ha detto Ahmadinejad. Poi vediamo anche qualche notizia invece a margine, come dire, un po' più leggera a margine di questa assemblea generale. Per esempio la notizia che riguarda Gheddafi, che come sapete partecipa in veste particolarmente prestigiosa, siederà nella sedia del capo a questa assemblea generale, è la sua prima visita negli Stati Uniti, e soprattutto si è portato la tenda che anche noi italiani, noi romani in particolare, ben conosciamo, la tenda il cui significato un po' ci sfugge. Abbiamo capito che serve come luogo di ospitalità tipica che lui si porta dietro, anche perché poi in realtà dorme nella sede diplomatica libica a Manhattan, alla Libya House, sulla 48esima strada. Il problema è che questa tenda, gli americani, che hanno la memoria abbastanza lunga da ricordare che cosa accadde al volo Panam 103, non la volevano a tutti i costi sulla loro terra, e quindi sono stati un sacco di problemi, l'hanno spinto sempre più in periferia, il New Jersey era là, dall'altra parte delle acque, ma poi alla fine è intervenuto uno che è abituato a salvare un po', come dire, la frittata prima che si bruci, il solito Donald Trump, un altro che sa come guadagnare le prime pagine, perché ha deciso di dare ospitalità alla tenda di Muammar Gheddafi, che verrà per l'appunto piantata, anzi è stata piantata nella sua tenuta che si chiama Seven Springs a Bedford, estrema periferia nord di New York, non una zona proprio scicchissima, colonnello, è bene dirlo, ma di fatto pare che prenda dei soldi, questa è la notizia. Donald Trump naturalmente ha chiesto, da bravo uomo d'affari, un discreto affitto per la proprietà. C'è stata una protesta dei locali, ma insomma business is business, Trump incassa, lui pianta la tenda e terrà lì qualche ricevimento, poi sarà da vederci chi si spingerà fino a Bedford per prendere un tè con il colonnello. Primo piano. Our service people, as you know well from first hand, are incredibly smart and they're incredibly professional. And when you put it in the wider... Questi sono argomenti invece che tornano a essere assai seri. La voce che sentite in sottofondo è quella di Stanley McChrystal, il capo in testa, il responsabile delle operazioni militari in Afghanistan, che ha presentato questo famoso rapporto prima al Pentagono e poi alla Casa Bianca, che il giornalista del Washington Post Bob Woodward, lo stesso, no, del celebre film Tre giorni del Condor e quant'altro, insomma, è riuscito a intercettare, ha pubblicato, ha reso noto, ha fatto capire che esistono due punti di vista differenti, differenziati tra l'America militare e l'America della politica civile, se mi passate queste generalizzazioni riguardo a ciò che andrebbe fatto. fatto in Afghanistan. Di fatto Barack Obama ha letto il rapporto, ha capito che la sostanza è che i militari chiedono un potente incremento di truppe, si parla di 60.000 uomini in più, quindi di uno stanziamento non solo economico ma anche di potenziali perdite di vite umane assolutamente considerevole e tutt'altro che in accordo con la visione esposta da Barack Obama lungo tutta la campagna elettorale e l'insediamento alla Casa Bianca, e alla fine con un certo coraggio sta cominciando a spingere forte sul pedale del freno, si prepara a cambiare rotta, sì, in Afghanistan, rinunciando alla strategia tutt'altro che fortunata del nation building, di dare delle motivazioni e una regola interna, di trasferire agli afghani una regola interna, perché sembra assolutamente prematuro questo atteggiamento, ma anche le operazioni militari sembrano destinate a essere contenute. Invece, questo sembra essere l'indirizzo di Barack Obama, sospinto soprattutto, come scrive il New York Times oggi, dai consigli del suo vice Joe Biden, ci si rifocalizza sempre più sulla caccia a Al-Qaeda e in particolare a Osama Bin Laden. Lo ha detto molto chiaramente Barack Obama: negli ultimi anni la nostra strategia è andata alla deriva, abbiamo perso di vista gli obiettivi della missione, dare la caccia alle persone che hanno ucciso 3.000 americani. A questo vuole tornare, con una scelta così abbastanza sulla lama, sul filo del rasoio, Barack Obama, rimettendo per adesso nel cassetto il rapporto di McChrystal. È una storia assai interessante che seguiremo giorno per giorno, ma ora dateci invece il tempo di fare anche noi gli auguri a un altro grande americano, tutt'altra appartenenza, anche se anche lui abita dall'altra parte del fiume, nel New Jersey. Perché è vero che il rock invecchia, ma insomma, se a 60 anni ci si arriva come ci arriva il boss Bruce Springsteen, tutto sommato può andare. Buongiorno America. E luceva le stelle. E olezzava la terra. Stride. Oh, di che cosa parlano? Di che cosa parlano giornali, riviste e notiziari televisivi americani mentre gli americani si svegliano? Parlano molto, ad esempio, sia i quotidiani che le televisioni della Tosca di Puccini, della inaugurazione del Metropolitan Opera a New York, insomma la scadenza dall'altra parte dell'oceano più importante del mondo della lirica. Ne parlano tanto perché è andata maluccio, per non dire assai male, nel senso che sono arrivati fischi che non sono, contrariamente alle abitudini di questa parte dell'Europa, normali, una presenza, come dire, ricorrente in eventi di questo genere. Invece è andata in modo perlomeno così contraddittorio il debutto della nuova produzione della Tosca di Puccini al Met, dove le persone hanno pagato $1.250 a testa in tempo di crisi per sedersi sulle poltrone e assistere così alla invenzione dedicata alla Tosca dal regista svizzero Luc Bondy. È stata giudicata anche dalla stampa una produzione piuttosto pretenziosa, banale, infedele al testo. Si è difeso il direttore del Met, Gelb, dicendo che in realtà il fatto è che la produzione di Bondy sostituisce quella di Zeffirelli, che era una vecchia abitudine, un vecchio classico del Met, perché la Tosca di Zeffirelli è stata replicata fin dall'85 tante volte nel Grande Teatro di New York, e che quindi la visione così più ruvida, meno leccata da parte di di Bondi è stata profondamente criticata. Ciliegina della torta, una bella litigata tra Zeffirelli e Bondi. Bondi ha detto la reazione è stata molto molto violenta, perché loro vedono questa tosca, gli americani sono abituati a questa tosca da ormai 30 anni, non vogliono niente di diverso. Zeffirelli pochi giorni fa aveva detto che in realtà questo Bondi era un regista di terza categoria. Bondi non se l'è mandata come non l'ha mandata giù tanto bene, gli ha risposto oggi sempre sul New York Times dicendo: io sarò pure un regista di terza categoria, ma il signor Zeffirelli è un secondo assistente di Luchino Visconti. Insomma, tipiche baruffe tra grandi star della lirica. Di fatto il pubblico non ha gradito. Get me out, bam. So right there. Into the nighttime. Four walls won't hold me tonight. If this town is just an apple. Anche questa piccola rarità oggi si vede sugli schermi americani e secondo me presto la vediamo anche sugli schermi italiani. La voce l'avete riconosciuta, perché se ce l'eravamo dimenticata, purtroppo i recenti fatti, la morte di Michael Jackson ce l'ha fatta ricordare. Lui è tornato a essere una star e un campione delle classifiche. Di fatto è entrato in circolazione in questo goccia goccia di rarità, che poi è anche un metodo commerciale. È entrato in circolazione un piccolo video di Michael Jackson registrato nel corso delle prove per la famosa Run 3, che poi non sarebbe mai avvenuta. Si vede, come al solito, Michael Jackson molto più in forma di quanto poi purtroppo la realtà avrebbe raccontato. Ma soprattutto, e questa è la piccola notizia che sta facendo divertire gli americani al punto che è già nata una mania, guardate YouTube e capirete da soli, perché Michael Jackson in questo piccolo video presenta la sua ultima invenzione, ultima di nome di fatto, il passo del pinguino. Adesso purtroppo la radiofonia ha i suoi limiti e io non potrei fare quello che mi sentirei anche intitolato a fare, ovvero dimostrarvi il passo del pinguino secondo la creatività di Michael Jackson, ma vi garantisco che è molto molto a posto. Questo passo ci è molto piaciuto e quindi basta incrociare, no, su un motore di ricerca Penguin e Michael Jackson, mandare il video e poi nella solitudine della vostra cameretta, insomma, fate un po' come vi pare. Ve le ricordate? Tempi eroici, no? Anche qui alla radio restavamo, come dire, sconvolti e stupiti da come una campagna elettorale si fosse trasformata progressivamente in una mania collettiva che aveva forse meno di politico che di emotivo, no? Al centro di tutta questa grande storia anche un grande slogan prontamente ripreso ai quattro angoli del pianeta, anche in Italia, anche se con fortuna assai più trascurabile, diciamo così, ma quel Yes We Can è stato certamente uno dei mattoncini, forse un mattone anche di una certa portata alla base della fortuna elettorale di Barack Obama. Esce adesso, come sempre capita, un libro e arriva una rivelazione abbastanza sorprendente, per non dire sconvolgente, che è una parola magari troppo grossa, ma di fatto sembra proprio che quando David Axelrod, il principale stratega della campagna di Barack Obama, propose per la prima volta quel motto Yes We Can a Obama, il futuro presidente bocciò proprio subito la cosa, dicendo: dai David, che schifezza. Lo giudicò corny, un po' cafone, un po', insomma, una roba un po' fuori luogo. Era ancora il 2004 e Obama aveva una visione da forse anche da quel candidato elitario che era almeno in partenza, insomma. Voleva usare argomenti di ben diverso valore. Lincoln in quel momento era il suo principale la principale figura che lo ispirava, quindi bocciò quella idea. Axelrod, che è uno, come dire, che la sa lunga e poi sa come comunicare con Obama, gli disse: guarda, fidati, funziona e funzionerà, non è infantile come tu pensi. a quel punto Obama si è affidata ed è finita come è finita. Lo leggete tutto ciò in un libro appena uscito in America ad opera di un altro dei ben informati, ma uno molto attendibile, si chiama Christopher Anderson. Il libro è intitolato Barack e Michelle, ritratto di un matrimonio americano. Cioè, si parla anche di Bill e Hillary, pare proprio che non li volessero. Michelle avrebbe detto a Obama: davvero vorresti Bill e Hillary nell'androne di casa tutti i giorni? Ma anche lì Obama alla fine è arrivato, no, a ragionarci sopra, a pensare che tutto sommato era conveniente. Queste sono Storie d'Oltreoceano, che vi racconta il sottoscritto Stefano Pistolini qui a Buongiorno America, con la collaborazione in redazione di Antonella Migliaccio, in regia Alessandro Chiappini a Roma, Fabio Cantadori a Milano. Abbiamo una mail che è buongiornoamerica@radio24.it e una piccola versione telematica che porta un nome vecchio, ma insomma che fa parte della continuità, che è redazione Jefferson 3, Facebook, consultatelo, veniteci a trovare, potete ascoltarci in replica 10 minuti dopo mezzanotte, domani in diretta alle 13:30 e qualche cosa qui su Radio 24. Ci sentiamo, state tutti bene.